Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa puntata del Pioniere. Chi ci ascolta sa quante volte abbiamo ricordato come fosse impellente la necessità per la sinistra nel dopoguerra di ricostruire non solo case, ponti e scuole, ma anche una stessa cultura di una popolazione, in particolare di quei ragazzi allevati in ultimo da 5 anni di guerra tremenda e prima da 20 anni di bombardamento di propaganda fascista. Oggi allora entriamo nel vivo di questo vero e proprio scontro di civiltà, paragonando, e credo che risulterà chiaro il confronto, una filosofia alla Rodari, quella del Pioniere, e invece la filosofia alla Balilla, il giornalino che veniva stampato durante il ventennio fascista. Abbiamo intercalato le filastrocche di Rodari con le poesiole del fascismo, ma credo che non vi sarà difficile riconoscere le prime dalle seconde. Buon ascolto. La strocca della pelle di Gianni Rodari. Pelle bianca come la cera, pelle nera come la sera, pelle arancione come il sole, pelle gialla come il limone, tanti colori come i fiori, di nessuno puoi fare a meno. Per disegnare l'arcobaleno, chi un sol colore amerà, un cuore grigio sempre avrà. Noi di Roma andiamo a Balilla, e le luce primo aspetto. A Salonne Mordivò si lamenta come può. E il furbissimo giudeo vara un tale piagnisteo che, commosso, il buon Pierino gli dà il pranzo e il borsellino. A Salonne, lesto lesto, mangia il pranzo e in tasca il resto. Ma un amico di Pierino dice: aspetta un momentino, guarda l'oro che c'è sotto questo sudicio cappotto. Il furbone smascherato a dovere è sistemato. Imprecando a Zaccaria per di soldi per la via, e correndo fino a sera attraversa la frontiera. A Salonne Mordivò è uno dei personaggi attraverso i quali la stampa per ragazzi interviene nella campagna antisemita. Che bel paese, forte, splendido e cortese, dove canta giovinezza la sua canzone. Cappuccetto rosso, le petit chaperon rouge e le fiabe di Charles Perrault, diventa italiana, piccola italiana e legionaria. Non mi resta dunque che narrarvi la vera storia di Cappuccetto Rosso piccola italiana, anzi arci italiana. Cappuccetto ardita affronta i nemici e non li conta. Il nemico, a dire il vero, è un cosino quasi nero, una bimba come lei che prorompe in piagnistei. Addissa Isha afferrò una manina di Cappuccetto e la baciò. Poi disse: tu devi essere buona. Siete tutti buoni voi italiani. Che cosa triste dovervi fare la guerra. E Cappuccetto Rosso, piccola italiana, rispose: ma chi è buono non deve far guerra agli italiani, che liberano gli schiavi, proteggono i bambini, costruiscono case al posto delle vostre brutte capanne, che vengono in Africa per farne una terra bella e felice come l'Italia, con tanti campi, tante città, tanti divertimenti. Nome, sputa fuori il tuo nome, canaglia! Levi, Abramo Levi! Un ebreo, l'avrei giurato! Razzista, picchiatore, non tanto intelligente, Dick Fulmine è il personaggio emblematico di questa cultura. In Dick Fulmine, il mito dell'azione si innesta sul modello di italiano nuovo, voluto e potenziato dal regime. Dick Fulmine ragiona in termini di violenza, esercitando la preferenza su neri, gialli, indiani, meticci. Di quando in quando il suo bersaglio è un russo. Possibile che per far tacere la gente debbo sempre distribuire pugni? Questi sono pugni che vengono dall'Italia, garantiti autentici. Durante i primi minuti, Fulmine si mette a parare i colpi del campione sovietico ripugilato. Poi, improvvisamente... Come puzzate, figli del celeste impero! Oh, guarda un po' lassù! Promemoria di Gianni Rodari. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte. Chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Se il mondo vuol la pace, dovrà sentir la voce di un popolo che dice... Dormi figlio, non è nulla, c'è la mamma che ti culla. Se dal bosco esce la fiera, dille son camicia nera. Dormi e cresci figlio mio, cresci e tornami un ometto, che già pronto è il tuo moschetto. Finalmente potrà andare al campeggio coi balilla, e la gioia ecco traspare che nell'occhio gli scintilla. La divisa ed il moschetto, la gavetta e il cinturone, è un soldato già perfetto, con lo zaino sul groppone. Giocate, scherzate, bambini, voi siete ancora piccini, ma un giorno il moschetto impugnando, alla guerra andrete cantando quegli inni che innalzano a gloria l'Italia e alla vittoria. Grandi promesse, la patria e l'impero, sempre più donne vestite di nero, allarmi che suonano d'Italia. La Commissione per la Bonifica Libraria, istituita dal Ministero della Cultura Popolare, ha disposto che i classici russi, gli inglesi e gli ebrei scompaiano dai negozi. La stessa sentenza era già stata decretata qualche mese prima contro gli eroi stranieri dei fumetti. Ed ecco che un'arditissima operazione Oriundi salva i più popolari, come Buffalo Bill. Vi ringrazio, Buffalo Bill. Sono l'ingegner Carboni, italiano. Italiano? Ma anch'io sono oriundo italiano. Il mio vero nome è Domenico Tombini. La mia famiglia era di Faenza. Mandrake the Magician diventa Mandrake, scritto all'italiana. e finisce ingaggiato dai servizi di sicurezza del Reich, finché una nuova temeraria operazione Oriundi consente il recupero del più leggendario degli eroi dei fumetti, l'uomo mascherato. Amici, è venuto il momento che sappiate anche voi, come il mio fido segretario italiano Franco, chi sono. Dovete sapere che nel 1618 Don Felice Zeno, gentiluomo veneziano e mio antenato, lasciava le coste della Nuova Spagna. Don Zeno si scontrò con le Breton, il filibustiere. Cielo, il veneziano! Don Zeno si impossessò del tesoro dei filibustieri e da quell'epoca il tesoro ci servì generazione per generazione a compiere cose buone. Che bel paese, forte, splendido e cortese, dove canta giovinezza la sua canzone. Dare con rilievo e commentare il comunicato sull'aumento della statura in Italia, dimostrando come detto aumento sia il risultato di 16 anni di politica razziale. Balillino si misura sotto la finestra. Tutto il giorno si misura e si rimisura con angoscia. Mamma, io sono più piccolo, dice Balillino disperato. E adesso che cosa succede? Te lo dico subito. Succede che un brutto giorno passa di qui Mussolini, si ferma e suona al cancello. Insomma, questo Balillino cresce o non cresce? Si spicci, io ho bisogno di Balilla grandi. Gira sui tacchi e se ne va. È in collera? Mussolini non è mai in collera coi suoi Balilla. È persuaso che gli obbediscano e che diventano grandi. Quando noi si ebbe cantato, l'ispettore fece un discorso. Disse che noi Balilla e piccole italiane siamo degli aquilotti che spuntiamo le penne e rinforziamo le ali per volare lontani dalla patria e per portarvi la bella parola del Duce. Aggiunse, quando sarete grandi, anche per voi giungerà quell'ora. Da Balillino del suo papà, una ne pensa, una ne fa. Fuori d'Italia, prodotto straniero. Siamo giunti a fabbricare buoni tessili anche con materie prime in passato credute inutili, come l'ortica e la ginestra, note la prima come vegetale fastidioso a toccarsi, la seconda per patetici versi del Leopardi. I cartelli per la via parla spesso d'autarchia e li legge attentamente Gian Lupetto fra la gente. Torna a casa e va in cucina, dove trova Teresina che via getta, la sbadata, una pentola bucata. Ma la pentola Lupetto prende e sale su un panchetto, tappa bene prima il foro, quindi inizia il suo lavoro. Poscia il bravo e buon bambino, annaffiando va il giardino, e da tutto il vicinato egli vien molto ammirato. E l'Italia il primo fiore. Con la nuova carta della scuola, preparata dal ministro Bottai, l'età politica e l'età scolastica vengono a coincidere. Gli studenti dai 6 ai 21 anni, 6 milioni nell'anno scolastico 38-39, sono obbligatoriamente inseriti nelle organizzazioni giovanili del regime, la GIL e il GUF. E la partecipazione a tutte le adunate e manifestazioni della GIL e del GUF costituisce servizio scolastico né più né meno dello studio. Sulla definitiva fascistizzazione della scuola, l'ufficio stampa del partito scrive: fondamento e programma della nuova educazione fascista è la formazione della coscienza e del pensiero dei giovani, perché si affaccino alla vita con un problema sociale e politico già risolto. Certo che se proprio potessi scegliere, mi piacerebbe fare il duce. Non il duce d'Italia, ma il duce della mia classe. Allora comanderei a tutti i miei compagni e vorrei fare leggi sempre giuste. La signora maestra non conterebbe più nulla e nemmeno la signorina direttrice. Da classe quarta, religione, grammatica, storia. Esempio di predicato nominale. Il duce è laboriosissimo. Il duce è un vincitore. Il duce è un grande condottiero. Il duce è il fondatore dell'impero. Esempio di predicato verbale. Il duce lavora. Il Duce ha vinto. Il Duce guida l'Italia. Il Duce ha fondato l'impero. Giovani italiani, giovani Balilla, siate forti, belli, aitanti, ariani, pronti a andare per il mondo a imporre il paese più bello, l'Italia. In realtà molti partivano per altri paesi stranieri, ma non certo per la gloria dell'Italia, come ci racconta in ultimo questa filastrocca di Rodari, La valigia degli emigranti. Non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio per non restar solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato. Nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire. Oltre il mare non vuole venire. Lui resta fedele come un cane nella terra che non mi dà pane. Un piccolo campo proprio lassù. Ma il treno corre. Non si vede più. Torno a casa, siamo in tanti sul treno. Stanchi, ma nel cuore sereno. Dopo tanti mesi di lavoro mi riposerò dietro quella porta, le mie cose io ritroverò. La mia lingua sentirò, quel che dico capirò. Sposa, nel tuo letto riposa, al mattino sai di avermi vicino, apri la valigia, c'è il vestito che sognavi tu. Guardati allo specchio, tu sei bella, non levarlo più. Nostalgia che passa e va, fino a quando durerà. Non posso voltarmi, porto nel mio sguardo la mia donna e tutto quel che ho. Torno verso occhi sconosciuti che amar non so. Questa volta chi lo sa, forse l'ultima sarà. Nella prossima trasmissione affronteremo il processo che nel 1953 a Fotonovo si scatenò contro il pioniere e i circoli dei pionieri, una vera e propria caccia alle streghe e al fumetto. Ma non solo in Italia questa caccia alle streghe ebbe luogo, addirittura nella patria del fumetto, gli Stati Uniti d'America, le cose furono tutt'altro che rose e fiori. Ascoltiamo. I fumetti sin dagli inizi sono stati spesso considerati, citando varie testimonianze, vergognosi e degradanti, la più infima forma di spazzatura, disegnati e stampati in malo modo per persone estremamente stupide, capaci di creare dipendenza, fascisti, carichi di insegnamenti comunisti, capaci di istigare a compiere delitti e crimini, come pensano ancora oggi molti telegiornali. Non c'erano solo i coltelli, la candeggina e i computer fra il materiale sequestrato nell'appartamento di Raffaele Sollecito. C'erano anche diversi manga, i fumetti giapponesi. Vi furono delle vere e proprie crociate contro i fumetti. Nei principali giornali cattolici vi furono articoli che li criticavano aspramente. Nel febbraio 1943 il mensile Catholic World indicava come elementi sbagliati e disturbanti del fumetto, il soprannaturale, i nomi misteriosi, i superpoteri che sfidano le leggi della natura e dei supereroi, che erano falsi dei pagani e fascisti. Le discussioni sui fumetti occupavano le prime pagine dei quotidiani. Nei primi anni del dopoguerra gruppi di fedeli si prodigavano nel lanciare condanne rivolte ai fumetti, che passavano dai circoli femminili alle associazioni di genitori e insegnanti, fino ad arrivare alla polizia e ai politici locali, che nel 1948 iniziarono a ritirare e vietare alcuni fumetti. Il Time, il 29 marzo 1948, pubblicò un articolo intitolato Pozzi di sangue, dove in poche parole si diceva che la delinquenza stava aumentando in relazione con i vari delitti raffigurati negli albi a fumetti, che ispirano il male e mostrano le varie forme che questo può assumere. Questo articolo era stato scritto da Frederick Vertam, l'ennesimo che aveva assalito i fumetti, con la differenza che lui era un uomo di scienza. Era uno psichiatra piuttosto famoso negli Stati Uniti ed era considerato il massimo esperto della psicologia infantile ed adolescenziale. Quando cominciò quindi a dire che i fumetti stavano trasformando la sana gioventù americana, portandola nella strada della criminalità, delle perversioni sessuali e dell'omosessualità, e che Hitler, a confronto con l'industria del fumetto, era un principiante, molti gli credettero. Nelle scuole venivano organizzati roghi di fumetti, montagne alti quasi 2 metri, gettate dagli stessi alunni alle fiamme, attorno alle quali poi marciavano cantando filastrocche contro i fumetti. Nel suo libro La seduzione degli innocenti, che ottenne una grandissima promozione, indicava tutti gli elementi secondo i quali i fumetti erano dannosi. Denunciò tutte le raffigurazioni di violenza, sesso, uso di droghe e altri argomenti per adulti contenute nei crime comics, termine che Vertam usò per descrivere non solo i fumetti che parlavano di gangster e omicidi, ma anche quelli horror e di supereroi. Le prime righe del libro lo descrivevano come risultato di 7 anni di ricerca scientifica. Sosteneva che alcune presunte figure sessuali fossero nascoste nelle immagini degli alberi e nei vari disegni degli albi. Elaborò una teoria secondo la quale Batman e Robin erano gay. Ringraziamo Luca Schiavo che con questa scheda sulle difficoltà dei fumetti negli Stati Uniti d'America, patria del balloon, ci dimostra come l'offensiva tremenda che avvenne nel dopoguerra da parte della Chiesa delle Scomuniche nel confronto del pioniere e dei circoli di pionieri non nasceva dal nulla, ma aveva radici in un solido pregiudizio maturato non solo in Italia. Questo ci porterà dunque al processo del 53 di Fossonovo, ma in materia della prossima puntata. Adesso non ci rimane che salutarvi, a risentirci. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non...